I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Luglio, secondo la Confcommercio, sarà un mese da incorniciare quanto a consumi degli italiani. L'indicatore messo a punto dall'Associazione dei Commercianti, infatti, fa registrare un aumento dello 0,4% sul mese precedente e soprattutto un più 2,1% tendenziale, che è il valore più alto dal 2010. Per Confcommercio questo significa addirittura che il PIL potrebbe chiudere l'anno con un più 1,1% e diventare dell'1,4% l'anno successivo. Sono dati indubbiamente ottimistici, visto che il prodotto interno lordo, nelle stime del governo, dovrebbe crescere dello 0,7% quest'anno, anche se già si sa che comunque verrà rivisto al rialzo. L'analisi dei dati forniti ieri dimostra che gli italiani stanno recuperando gli acquisti sui beni durevoli, soprattutto le auto, che come è noto sono oggetto di un vero boom di vendite. E non c'è ancora lo stesso trend sostenuto sui beni di largo consumo, visto che ad esempio per alimentari, bevande e tabacchi proprio luglio segna un calo dello 0,2%. La fiducia ai consumatori insomma si va consolidando, anche se non si può ancora dire che si sia imboccata una robusta via della ripresa. Sono segnali, come ne stanno venendo da un po' di mesi a questa parte, proprio sul PIL, sulla produzione industriale, sull'export, sui prestiti alle famiglie, sui mutui e anche sull'occupazione, per quanto piccoli. Qualcosa in effetti si sta scongelando. Per arrivare alla svolta vera serve però un altro colpo di acceleratore sulle riforme, a cominciare da un deciso taglio fiscale su lavoro e impresa e da un massiccio piano di investimenti, operazione che potrebbe venir compromessa dalla scelta fatta dal governo, o meglio annunciata, di dare la priorità alla riduzione delle tasse sulla casa. È un momento delicato per l'economia e sbagliare le priorità dell'agenda potrebbe mettere il piombo sulle ali di una ripresa che ancora sta solo rullando sulla pista. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Nuovo scandalo in vista per i grandi colossi della finanza globale americana. E in mezzo c'è un altro colossale mercato che sarebbe stato manipolato. Questa volta niente meno che i Treasury degli Stati Uniti. Il Dipartimento della Giustizia americana e l'autorità dello Stato di New York hanno avviato inchieste parallele proprio sul sospetto che alcune aste dei titoli del tesoro americano, considerato forse il mercato più liquido e più grande del mondo, pari a 12.800 miliardi di dollari, siano state truccate da gruppi di trader bancari. Sarebbe questo solo l'ultimo di una serie di scandali finanziari che ha minato le fondamenta della fiducia sulle attività, appunto, dei grandi player della finanza globale. Il primo è stato lo scandalo sulla manipolazione dell'Libor, il tasso a cui è indirettamente legato anche quello sui mutui. Ben 16 banche inglesi, americane e svizzere manipolavano i valori e il mercato sulla base di un linguaggio in codice, ovviamente vietato. 5 banche, HSBC, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs e Royal Bank of Scotland, hanno raggiunto accordi per il pagamento di una sanzione che va da 99 a 375 milioni di dollari. Nel complesso le multe sono arrivate nella fase iniziale a 5,6 miliardi. Poi è arrivato lo scandalo della manipolazione dei cambi e dalle autorità inglesi, americana e svizzera sono arrivate 4,3 miliardi di dollari di multe, sempre per UBS, HSBC, RBS, Citi, JP Morgan e Bank of America. Indagini sono tuttora in corso per accertare eventuali truffe da parte sempre delle banche globali sul fixing dell'oro e di alcune materie prime strategiche. Nei giorni scorsi, tra l'altro, si è avuta notizia della prima condanna a 14 anni di carcere per uno degli operatori coinvolti nello scandalo Libor. Le multe pagate dal 2008 ad oggi a Wall Street si aggirano complessivamente sui 200 miliardi di dollari e dopo questa colossale sanzione sono in agguato anche le class action per ulteriori richieste miliardarie di danni. Per la finanza dell'azzardo morale forse è davvero arrivato il conto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.